Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. E adesso dovrebbe essere il turno di Asibevic, mentre rivediamo il rigore di De Zotti trasformato, e tocca a Faruk Asibevic, 33enne del Sochaux. Parato, l'Argentina va in semifinale, ha sbagliato Asibevic, era passato in vantaggio la Jugoslavia che con gli errori di Brnovic e di Asibevic ha praticamente sciupato la possibilità di andare avanti nel campionato del mondo. In semifinale va dunque l'Argentina. Capita a volte di imbattersi in dei libretti che non solo stimolano la curiosità ma anche la memoria e ci aiutano anche a mettere ordine nei nostri ricordi, anche quelli relativi a una passione grande e inesauribile come quella del calcio, ma ci aiutano anche a definire dei sentieri da percorrere per capire un po' il futuro dello sport e della nostra società. È questo insieme di sensazioni che ho provato quando mi sono imbattuto in Il Brasile d'Europa, il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità, volume curato dall'autore che oggi ho il piacere di avere ospite qui a Olimpia, la città dello sport. Paolo Carelli, ricercatore sui media e la TV presso l'Università Cattolica di Milano, e scrive di calcio storico sul web magazine Zona Cesarini ed è appunto oggi ospite qui a Olimpia, la città dello sport. Benvenuto Paolo. Grazie, buonasera. Allora, caro Paolo, l'utopia del calcio della ex Jugoslavia. Beh, io vado a memoria, non sono né vecchissimo né particolarmente giovane, ma ricordo quell'ultima grande Jugoslavia del calcio che vide infrangersi i suoi sogni, se non sbaglio, sui guanti di Goicoechea, un mondiale di Italia 90, no? Proprio in quei quarti di finale contro l'Argentina. Sì, contro l'Argentina a Firenze, i mondiali d'Italia 90. E quell'ultima generazione del calcio jugoslavo è quella da cui un po' ho preso anche le mosse per il mio libro. È quello che era stato definito appunto il Brasile d'Europa. Una nazionale davvero formidabile dal punto di vista della tecnica, della capacità di giocare un calcio molto fantasioso, ma allo stesso tempo molto, molto fragile, quindi incapace di ottenere dei risultati maggiori a quelli che invece avrebbe potuto ottenere viste le grandi qualità in campo. Nazionale che si infranse, come tu dicevi giustamente, sui guantoni di Goicoechea, ma in realtà si infranse due anni dopo in una serata di Stoccolma, quando la nazionale jugoslava era già in ritiro per gli europei di Svezia 92, che stando ai pronostici si apprestava a vincere o comunque a vivere da assoluta protagonista, e arrivò un fax da Berna, dalla sede della UEFA, che estromise la nazionale jugoslava da ogni competizione sportiva di carattere internazionale in seguito agli eventi che stavano appunto sconvolgendo il paese. E a soli 10 giorni appunto dall'inizio dell'europeo fu estromessa. Fu poi, come sai, ripescata la Danimarca, che vinse quegli europei. Eh sì, anche quella Danimarca ha meritato i suoi libri, perché sì, quella è stata una favola clamorosa. E tra l'altro sullo scoglio della sanguinosa guerra civile nella ex Jugoslavia si infranse tutto il mondo sportivo, no? Ricordo ad esempio gli europei di basket a Roma, se non sbaglio, vado a memoria, sempre il 91, il 92, in cui proprio alla vigilia della finale contro l'Italia, padrona di casa, quella squadra si dissolse, Zox, lo sloveno, abbandonò il ritiro su pressioni del governo di Lubiana, vero? Sì, e poi ci fu anche quell'episodio, in realtà, poi molto più romanzato da quella che è stata anche la letteratura e la copertura informativa successiva, tra i due grandi campioni di quell'ultima Jugoslavia cestistica, che erano Divic e Drazen Petrovic, uno serbo e uno croato, che in qualche modo si scontrarono tra virgolette all'interno dello stesso dello st- stesso campo di pallacanestro. Eh sì, Vlade Divac e Drazen Petrovic, ricordiamo, straordinari campioni divisi come tanti altri da quella rivalità, da quella guerra sanguinosa. Tra i miei ricordi d'infanzia, che in qualche modo ricostruisci anche ripercorrendo i sentieri del calcio dell'ex Jugoslavia, ricordo le partite su Tele Capodistria, quando ancora le frequenze arrivavano in tutta Italia, e mi fissavo spesso a seguire le gare del Velez Mostar, no? Squadra particolarmente talentuosa bosniaca. Sì, assolutamente, la squadra appunto della città di Mostar, in realtà una delle due squadre della città di Mostar. Un capitolo del libro, tra l'altro, è dedicato appunto a queste città marginali del calcio jugoslavo. Noi siamo abituati a pensare, e se ne parla abbondantemente anche nel testo naturalmente, ai grandi quattro club, no? I due di Belgrado, Stella Rossa Partizan, più la Dinamo Zagabria e l'Hajduk Spalato, che in qualche modo hanno rappresentato la grandezza del calcio jugoslavo non solo nella fase finale ma anche dall'inizio, insomma dagli anni 40, dagli anni 50. In realtà un pezzo del libro dedicato anche a una geografia più diffusa e multiforme di quel paese un tempo unito, Mostar, con il derby tra il Velez e lo Zrinjevski, due squadre nate in contesti ideologici, culturali e religiosi profondamente diversi. Il Velez Mostar con una forte impronta di carattere socialista, comunista negli anni 20, lo Zrinjevski invece all'inizio addirittura del Novecento con una forte impronta ultranazionalista e ultracattolica, estromesso poi durante appunto il regime di Tito e in qualche modo rinato solo all'inizio degli anni 90, rappresentano ancora oggi uno dei derby più accesi, una delle rivalità più sentite. E come Mostar poi ci sono tante altre città, da Tuzla a Niš a Novi Sad, la città del grande Vujadin Boslov, che già rappresentano appunto questa geografia diffusa del calcio slavo. Sì, perché il calcio che tu fotografi, come era allora ma come è probabilmente ancora oggi, è quello dell'ex Jugoslavia, definisce una mappatura delle rivalità, dei contrasti che dobbiamo imparare a leggere, se ancora non l'abbiamo capito, eppure la storia ci è stata maestra in questo. Non va per regioni, per quartieri, per vallate, ma va quasi di porta in porta, di strada in strada, e tra l'altro in modo ambivalente, perché rivalità accesissime in certi contesti diventano negli stessi luoghi, nelle stesse strade, nelle stesse vie, nelle stesse porte, anche delle amicizie momentanee altrettanto forti, per poi riaccendersi in altrettanto forti rivalità, no? Sì, e purtroppo la guerra dei Balcani, che all'inizio degli anni 90 ha sconvolto e di fatto posto fine all'esperienza nazionale, statuale della Jugoslavia, ne è stata da questo punto di vista un tragico esempio. Come spesso accade, il calcio ha fatto anche da detonatore di una serie di fenomeni, se vogliamo, di rivendicazione nazionalista che sono emersi da diverse città e da diversi territori. Tu citavi appunto queste rivalità in qualche modo che si compongono e si riformano in situazioni differenti. Mi viene in mente come le due grandi squadre rivali di Belgrado, la Stella Rossa e il Partizan, che per decenni si sono appunto contrastate in nome anche di una, se vogliamo, impronta ideologica originaria, per cui il Partizan, la squadra dell'esercito, dell'armata federale, di fatto aveva il compito di rappresentare tutta la Jugoslavia, quindi tutte le etnie che componevano la Jugoslavia, mentre la Stella Rossa era storicamente la squadra dei serbi di Belgrado, quindi aveva come dire l'impronta ideologica serba molto più nazionalista. In realtà nel corso poi della guerra anche le due tifoserie si unirono in un odio, una rivalità comune contro i croati prima e contro i bosniaci successivamente. Capire la formazione dei club nella ex Jugoslavia all'inizio degli anni 10, degli anni 20 o poi successivamente, come per la Stella Rossa o lo stesso Partizan, alla fine della Seconda Guerra Mondiale con l'inizio della Repubblica Socialista, è fondamentale a mio avviso per capire la guerra, o meglio, per capire il ruolo che il calcio, assolutamente non secondario, ha avuto anche all'interno del conflitto bellico. Senti, ma il generale Tito era appassionato di calcio oppure tipo tipo il ping pong alla Mao Zedong? Il generale Tito era indubbiamente uno sportivo, nel senso che in età giovanile era stato anche un campione di scherma, aveva anche ottenuto dei discreti risultati in alcuni campionati europei, a Budapest in particolare. La figura di Tito è però molto legata al calcio, e anche a un episodio in particolare, cioè il giorno della sua morte in una clinica di Lubiana, il 4 maggio del 1980, si sta giocando allo stadio di Spalat una grande classica tra Hajduk e Stella Rossa di Belgrado, e a un certo punto si sparge la notizia appunto della morte di Tito e la partita viene interrotta con i giocatori che si gettano in pianti, in lacrime all'interno del campo, e tutto il pubblico dagli spalti che si unisce in cori e in canti in favore del maresciallo. Quindi una figura assolutamente centrale, ci spiega come in questi territori, ma come un po' ovunque a dire la verità, il rapporto tra calcio potere, calcio e politica e identità soprattutto è stato assolutamente molto forte e credo continui ad esserlo ancora. Allora io direi che ci prendiamo qualche istante di pausa, poi sempre con l'aiuto del tuo libro Il Brasile d'Europa, il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità, e con l'aiuto della tua competenza e della tua voce, torniamo qui a Olimpia e soprattutto ritorniamo nella ex Jugoslavia e nel suo calcio. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora insieme qui a Olimpia. Oggi davvero affrontiamo un argomento particolare, bello, sfizioso, ma anche importante dal punto di vista storico, con la guida del nostro ospite Paolo Carelli. Ben ritrovato Paolo. Grazie. E del suo volume Il Brasile d'Europa, il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità, guardiamo un po' al passato della Jugoslavia, del calcio, ma che è anche il passato d'Europa, e cerchiamo di tratteggiare, seguendo il rotolare di questo pallone, anche un po' il futuro dell'Europa calcistica e non solo. Beh, Paolo, ricordavamo Vujadin Boskov come prima calciatore, poi grande allenatore, vincente nel nostro calcio, poi mi viene in mente il grande Boban, Mihajlovic, Savicevic. Direi che il legame tra il nostro calcio e quello e i brasiliani d'Europa, che sono gli jugoslavi e gli ex jugoslavi, è indissolubile, no? Sono lì, dall'altra parte dell'Adriatico. Assolutamente sì, sono lì, ma credo che proprio perché sono lì dall'altra parte dell'Adriatico, forse noi non li abbiamo capiti fino in fondo e non abbiamo mai avuto nemmeno il coraggio forse di capire fino in fondo quel paese e di capire gli eventi che hanno portato anche alla grandezza da un lato e poi all'improvvisa e rapida dissoluzione dall'altro. Assolutamente sì, l'ultima nidiata, quella che abbiamo citato prima, del calcio jugoslavo, dei vari Boban, Mihajlovic, giocatori provenienti da diverse etnie, no? Serbi, croati, sloveni, bosniaci, è una grande epopea che poi ha intrecciato il calcio italiano non soltanto per le loro presenze nel campionato italiano, ma anche per avere con le maglie della nazionale o dei loro rispettivi club incontrato e spesso fatto soffrire le squadre italiane. Penso sulla Croazia, che non riusciamo mai a batterla. Sì, e penso ovviamente alla famosa nebbia di Belgrado che tutti ricordano, che in qualche modo si dice abbia in realtà aiutato la nascita e lo sviluppo dell'epopea del Milan di Sacchi. Quindi insomma tu sei interista, da quello che capisco. Assolutamente no, sono proprio milanista. Ah, ecco, no, pensavo che di solito è un episodio che gli antimilanisti ricordano con particolare rigore. E i milanisti con piacere. Quindi provvidenziale quella nebbia in quello straordinario stadio e contro quella straordinaria stella rossa. Batti cuore, Rijkaard. Tira il gol! Il Milan passa! Dopo questa interminabile, sofferta sfida con la stella rossa, i rossoneri passano al turno successivo di Coppa. Senti, oggi però, quando li sentiamo parlare, almeno ai nostri microfoni, perché poi immagino che forse sul fronte interno il tono delle dichiarazioni sia diverso, questi campioni, questi calciatori sembrano almeno formalmente pacificati, no? Non è che il dio denaro magari ha contribuito anche a stemperare alcune tensioni etniche con l'aiuto anche del tempo, insomma, diciamo così. Sì, da un certo punto di vista sì, spesso sono campioni che ormai da tanti anni non vivono in quei territori, che quindi dagli ultimi 20-25 anni sono stati abituati anche a vivere e a lavorare professionalmente in Europa e nel resto del mondo. In realtà dei rigurgiti anche di carattere identitario, anche non per forza negativi, emergono costantemente in occasione dei derby, in occasione di alcune partite di queste squadre, anche delle squadre per esempio bosniache che non perdono comunque occasione di ricordare per esempio il massacro di Srebrenica attraverso degli striscioni ogni anno quando appunto cade l'anniversario. E sulle rivalità dei giocatori oggi credo che siano appunto più stemperate, anche se in realtà il ricordo della guerra è rimasto in alcuni di questi. Io penso a una figura ad esempio come Mihajlovic, figura che non voglio giudicare ma che è assolutamente da un lato controversa e che invece da un certo punto di vista secondo me è la figura chiave per capire anche i meccanismi che hanno portato alla guerra dei Balcani, perché lui era un serbo, era nato a Vukovar in Croazia sul confine con la Serbia da madre croata e padre serbo e ha vissuto in questa appunto situazione al limite l'assedio e la distruzione della città di Vukovar, e lui soltanto alla fine del 2015 è tornato per la prima volta nella sua casa natale nel villaggio di Borovo-Naselje dove tutta la sua carriera sportiva era partita, ed erano passati appunto parecchi anni da quando se n'era andato, quindi evidentemente questi luoghi, questi territori per questi grandi campioni che poi hanno preso altre strade hanno ancora un significato molto, molto profondo, come è normale che sia. Eh sì, davvero, se c'è un piccolo consiglio magari banale che possiamo dare qua da Olimpia, veramente provate a attraversarlo l'Adriatico per avventurarvi in queste zone, tra l'altro in molti casi splendide, suggestive, per capire, per toccare con mano quanto queste diversità, questi contrasti fossero e siano ancora per alcuni aspetti radicati. Non c'è città che ha vissuto quel dramma che non conservi ancora le drammatiche sinistre vestigie, no? Di ciò che è accaduto a partire da Mostar, a partire da Vukovar, per non parlare di Srebrenica. Direi che proprio tornando invece a ciò che accade nel campo di calcio, la Bosnia forse è una delle realtà, è la realtà in ascesa, no? Rispetto alle altre che pure forse hanno tradizioni e scuole ancora più solide. Sì, sì, si parla molto appunto della Bosnia, poi il nostro campionato è ricco di giocatori di assoluto livello da questo punto di vista. In linea di massima io credo comunque che con la dissoluzione della Jugoslavia all'inizio degli anni 90 quella scuola in qualche modo sia un po' persa, o meglio abbiamo visto come in realtà i club ora serbi, croati, bosniaci di fatto non riescano più a competere come accadeva in passato con i grandi club europei e internazionali. Questo per una serie di ragioni che vanno dalla libera circolazione dei calciatori a delle disponibilità anche economiche che i grandi club tedeschi, inglesi o spagnoli hanno in maniera infinitamente maggiore, e anche a delle regole delle competizioni internazionali che in qualche modo impediscono a questi club minori di emergere alle competizioni più importanti. Insomma, oggi è difficile vedere una Stella Rossa che vince la Coppa dei Campioni, tutt'al più arrivano ai gruppi sì, di Champions e facendo anche delle cattive figure come la Dinamo Zagabria quest'anno nel girone della Juve. Eppure 25 anni fa la Stella Rossa vinse la Coppa dei Campioni nella finale di Bari. Sì, sì, con questo vale un po' per tutti i paesi dell'ex Europa orientale, se vogliamo, che per un tempo hanno tenuto testa anche ai grandi club europei, pensiamo alla Steaua Bucarest, ai grandi club russi o sovietici, e invece oggi faticano molto. Però è vero che appunto i grandi campioni che provengono da quei territori ancora ci sono, quindi segno di una tradizione che comunque rimane. Poi oggi spesso capita di imbattersi in opinionisti, in commentatori che si avventurano nel costruire la squadra di un'ipotetica Jugoslavia oggi, come sarebbe oggi la Jugoslavia unita. Io dico anche in maniera molto tranchante nel mio libro che invece lo reputo un esercizio abbastanza sterile e inutile, nel senso che non ci porta da nessuna parte. Senti, alla luce della tua esperienza e delle pagine che ci hai regalato, suggeriscici una città del calcio della ex Jugoslavia magari da studiare, approfondire, al di là di quelle più note come che possono essere Spalato o Belgrado. Abbiamo citato Mostar, un capitolo del libro è dedicato alla città di Sarajevo, che è forse la città più emblematica da questo punto di vista. Città che ha rappresentato, insomma, se vogliamo, l'emblema della guerra, l'emblema negativo, ahimè, della guerra dei Balcani, città dove comunque storicamente nei secoli da sempre le diverse confessioni religiose, diversi orientamenti anche politici e culturali hanno sempre convissuto in maniera molto pacifica tra di loro, e forse anche per questo poi l'esplosione di quell'odio atavico, di quell'odio etnico ha comportato una tragedia così grande. La storia del calcio a Sarajevo è storia veramente del Novecento, è storia del ventesimo secolo, e vale la pena ripercorrerla con i due grandi club, lo Željezničar, la squadra dei ferrovieri, da un lato espressione di un'ideologia socialista, comunista degli anni 20, e l'FK Sarajevo, nato invece alla fine della Seconda Guerra Mondiale come squadra della borghesia cosmopolita e multietnica della città. Due squadre che rappresentano, che hanno vinto anche dei campionati e che rappresentano indubbiamente una storia ulteriore da andare a sviscerare. Spero di averlo fatto. Beh, insomma, per chi ancora non avesse fatto il biglietto per Sarajevo, Belgrado oppure Spalato, il suggerimento è quello di procurarsi prima comunque del viaggio questo splendido volumetto, Il Brasile d'Europa, il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità, di Paolo Carelli, che ringrazio per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, davvero è stato un piacere. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.